Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Amora, che sei libera. E che non mi vedi? Evviva la libertà. Ma forse c'è tua sorella qua. La notte brava è un film del 1959 liberamente tratto dal romanzo Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini. Sua alla sceneggiatura, di Mauro Bolognini la regia. Due borgatari romani, Scintillone e Ruggeretto, per passare inosservati alla polizia alla quale stanno tentando di nascondere dei fucili rubati, fanno salire in macchina due giovani prostitute, Anna e Supplizia. Mentre Thomas Millian esordisce sullo schermo nei panni di Achille, la mora che i ragazzi avvicinano in strada è già una star. A differenza della maggior parte delle sue colleghe, partite da Cinecittà con il sogno di arrivare a Hollywood, lei a Hollywood ha già sfondato ed è tornata a casa da diva. Eppure è umile e ironica, l'allure di mistero non fa per lei, non ha mai calcato la mano sull'atmosfera da icona inavvicinabile che contraddistingue altre attrici. Alta 1,76 m, altera, elegante, corpo esile e slanciato, viso spigoloso. Il suo nome è Elsa Martinelli. Elsa Martinelli. Di essere il segreto è avere la fortuna di far che sono gli altri che decidono per te, non sei tu. Cioè tu ti trovi bella, bellissima, non lo sai mai, sono sempre gli altri che decidono. Le fonti sulla data di nascita di Elsa Martinelli al secolo Elsa Tia non concordano. C'è chi dice il 13 gennaio, qualcuno il 30. Di certo siamo nel 1935 e Grosseto accoglie questa esile bambina con tutto il suo fascino rimasto intatto nei secoli. Le antiche mura circondano completamente il centro storico, il mare dista una decina di chilometri e la Maremma stupisce per la sua natura incontaminata. Toscana di nascita, Elsa diventa presto romana d'adozione quando ancora piccola si trasferisce con la sua famiglia nella capitale. Nel frattempo è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Roma, che ha un ruolo nevralgico nel conflitto, si trasforma in un teatro di attacchi e massacri. La quotidianità non è facile, ma si cerca di sopravvivere, cercando il più possibile di condurre una vita normale, fin quando, finalmente, il 4 giugno del 1944, le truppe alleate liberano la città. June 4th, 1944. Rome was free, liberated after 21 years of fascist rule. In famiglia si legge moltissimo, non per obbligo, ma per piacere. Tanto che la casa è piena di libri, soprattutto i grandi classici, che papà è solito comprare sulle bancarelle del Lungotevere. Elsa ogni tanto va con lui e respira l'aria della vera Roma. Trastevere, con le sue stradine ricoperte di San Pietrini su cui si affacciano le case popolari medievali, è un rione verace, di carattere, autonomo e orgoglioso. Un po' come Anna Magnani, che qui può esprimere davvero tutta la sua anima. A Trastevere, io sono Nannarella. Quella vera, sboccata e trasandata. Tra gli aromi e i sapori delle trattorie trovo il mio duplice volto, in perenne altalena tra le lacrime inconsolabili e le risate irrefrenabili. Sto nel prosultra d'armonia, ciumachella, ciumachella di Roma mia. Sei una rosa, sei un bigiù, una sciccheria. Ciumachella, tu sei nata ben cantata. Roma non è soltanto una città, è una protagonista nella vita di chi ci abita, un'amica, una confidente nelle lunghe notti nelle quali si passeggia lungo il Tevere. Roma è un modo di vivere e di vedere il mondo, fatto di ritmi propri, di una lingua unica, di sapori che non hanno eguali. Caotica e meravigliosa, romantica e sbruffona, cattura Elsa Martinelli fin da quando ancora bambina è venuta ad abitarci da Grosseto, dove è nata. Adesso però è cresciuta e il suo corpo sta prendendo la forma della splendida donna che diventerà. Vita sottile, lunghe gambe affusolate che le consentono di avere un incedere inconsapevolmente elegante, volto spigoloso e grandi occhi da cerbiatto. I ragazzi la trovano carina, ma sognano le procacità delle bellissime che vanno tanto di moda sul grande schermo. Quando io ho cominciato non è che non ce ne fossero, diciamo che era un tipo diverso e che era il momento, c'era un grande cambiamento di fisicità nelle donne e ho avuto la fortuna di cadere in un momento in cui mancava un tipo mio. Oggi purtroppo mi sembra che siano un po' tutto uguali, dunque è più difficile emergere. Via Veneto, inizio degli anni 50. Curiosa ed entusiasta, la non ancora diciottenne Elsa Martinelli segue con passione il lievitare della dolce vita in questa strada che presto sarebbe diventata una delle più famose al mondo. Con i suoi amici esce di casa di corsa impaziente di arrivare al Bar Doney, dove sembra sempre che da un momento all'altro possa succedere qualcosa di imperdibile. Non si va al Doney per farsi vedere, ripete spesso lei con l'aria di chi la sa lunga, ma per vedere. I grandi protagonisti di Via Veneto hanno i loro tavolini, spesso non cambiano nemmeno la posizione della sedia di sera in sera. Non bevono tantissimo, ma bevono in modo diverso dai comuni mortali. Nel bicchiere hanno sempre del whisky che fa tanto americano. Ci sono produttori, registi, scrittori, insomma tutta l'elite intellettuale del cinema e del teatro italiano è concentrata in uno spazio di pochi metri. Elsa e i suoi amici allungano l'orecchio per ascoltare le discussioni, gli scambi di idee che volano da una bocca all'altra. Giovani e squattrinati hanno in testa grandi sogni ma in tasca pochi soldi. Spesso si mantengono gli studi con qualche lavoretto saltuario. Qualcuno chiede aiuto a mamma e papà. Altri semplicemente cercano di non spendere nulla e tirano a campare facendosi offrire di tanto in tanto qualcosa da conoscenti più grandi. Elsa ricorda quei tempi in una recente intervista andata in onda nella trasmissione Moda sulla 7. Perché si faceva tardi la sera senza bere, perché si stava seduti, si vedevano i grandi che stavano lì di fronte, da Visconti a Bolognini. Davanti al Doney passano tutti. Risi, Monicelli, Flaiano, sono tutti molto seri, concentratissimi sul lavoro. Chiedono pareri agli altri, si confrontano. E il livello della conversazione è sempre molto elevato. Il maître, che ormai li conosce, lascia che Elsa e i suoi amici stiano seduti anche senza consumare. Una sera però un cameriere si avvicina al tavolo e chiede per favore che prendano qualcosa. I ragazzi si guardano, non hanno soldi. Ordinano quello che costa meno, non importa di cosa si tratti, ed è così che quel cameriere inventa il canarino, acqua e limone, per 10 lire. Al Teatro Eliseo c'è sempre qualcosa di interessante da andare a vedere. Quando arriva l'occasione, le ragazze si mettono un abito nero e un filo di perle. I ragazzi indossano giacca e cravatta e sembrano molto più grandi della loro età. Con Elsa ci sono Lina Vermüller, Edda Lancetti, sorella dello stilista, Giancarla Rosi, moglie del regista, Enrico Lucherini, futuro press agent. Di ritorno, ancora tappa obbligata al Doney per parlare dello spettacolo fino all'una o le due di notte. Nei bei palazzi di Via Veneto, fino a questo momento, i nobili avevano fatto vita ritirata, ma adesso escono anche loro e si mescolano con la folla di celebrità e curiosi. I palazzi cercano di affittarli come location per i film, prendono un drink, chiacchierano e poi vanno a cena nei club privati, tipo il Club 84, che considerano casa loro. Per entrarci bisogna conoscere qualcuno e indossare l'abito lungo. Lo vedevo gli abiti della Lollobrigida, era l'epoca dei grandi bustini che stringevano e facevano risaltare il seno, che io non avevo. Già, la moda. È in questi anni che il Made in Italy diventa sinonimo di qualità ed eleganza. La guerra non è finita da molto e ha lasciato spazio a una voglia di rinascita che può partire anche dall'abbigliamento. Il 27 gennaio del 1949, nella Basilica di Santa Francesca, si celebra il matrimonio del secolo, quello tra Linda Christian e Tyrone Power. L'abito della sposa, realizzato dalle sorelle Fontana, conquista il mondo. I giornalisti documentano l'evento mondano inneggiando allo stile italiano. L'Italia comincia a sfornare talenti, ma deve comunque competere con aziende molto potenti fuori dai suoi confini. La lungimiranza degli imprenditori si attiva allora per importare conoscenze e macchinari per stare al passo coi tempi. Le donne, fortemente determinate a far ritornare in vita il settore tessile, danno un forte impulso a questo processo. J'ai le cœur qui mue, j'ai les corps qui remuent. Oh oui, ce soir, je vais rêver à lui. À lui, à lui, toute la nuit j'ai langui. non pas ce soir, mais demain dans mon lit, il sera ralenti et tu seras plus. Negli anni 50 gli americani prendono possesso di Cinecittà. Alle sarte le richieste di abiti non arrivano più soltanto dall'aristocrazia romana, ma anche dal grande cinema. Le sorelle Fontana, ad esempio, lavorano moltissimo. Hanno il primo atelier proprio in una traversa di Via Veneto, Via Emilia, ed è qui che ricevono le celebrità. La creatività è nell'aria, e nonostante i passi avanti della moderna industria tessile, gli italiani che se lo possono permettere continuano a farsi fare i vestiti a mano. Gli altri indossano i vestiti fatti in casa. Tutti hanno una macchina per cucire e in ogni famiglia c'è qualcuno che la sa usare. Gli abiti non vengono mai buttati via, passano riadattati con qualche accorgimento di generazione in generazione. C'è spazio per l'affermazione di qualche giovane talento. Per esempio, Emilio Schubert, piccolissimo ed eccentrico. Schubert era un personaggio conosciutissimo all'epoca, abbastanza bizzarro per l'epoca, perché non erano signori, non so se fosse decisamente voluto o no, ma si laccava le unghie di rosso. Stravagante, bistrattato dai media e dalla morale dell'epoca, adorato dalle dive. Questo è il ritratto del giovane sarto napoletano pioniere nella lotta per i diritti degli omosessuali. Gina Lollobrigida si fida solo di lui nella vita privata e al cinema. Sandra Milo, con indosso un suo abito al Festival di Venezia, dichiara di sentirsi come nella favola di Cenerentola. Schubert riceve le sue clienti tra tende di velluto rosso e poltrone damascate. E le donne che riescono a farsi fare un abito da lui sentono di aver raggiunto un traguardo così importante che lo scrivono sull'invito delle loro nozze. Io ho fatto un nome internazionale, Schubert è conosciuto in tutto il mondo ed io rimanco qui in Italia a fare la moda italiana e a mandarla in tutto il mondo. Non c'è da stupirsi che Schubert abbia sempre una lunga lista di richieste ad aspettarlo e che debba chiedere aiuto per far fronte alla produzione in aumento, da seguire nel dettaglio, ad altri giovani sarti emergenti. Incuriosito dal suo talento, inizia allora a collaborare con un giovane appena uscito dall'Accademia di Belle Arti che sogna di fare lo stilista e guarda Schubert con profonda ammirazione. Si chiama Roberto Capucci. Roberto Capucci. C'è cultura, c'è modernità, c'è invenzione, movimento, è straordinario, veramente. Nell'atelier di Schubert Roberto Capucci si fa davvero le ossa. È qui che impara, per esempio, che il sarto può essere egli stesso una celebrità del jet set e che la moda non risponde soltanto all'esigenza di avere dei capi di abbigliamento su misura, ma è una vera e propria arte. Mentre Schubert però spettacolarizza ogni cosa che fa, Capucci è schivo e riservato. La grinta la mette nei suoi disegni, ognuno dei quali, più che un bozzetto, è un piccolo capolavoro. Lo raccontano anche i documenti del periodo. Capucci, uomo invisibile, ottimo disegnatore, è sempre alla ricerca dell'essenziale. Elsa Martinelli e gli altri amici invitano spesso Roberto a uscire con loro. Lo aspettano per ore al Donei, quando stanno seduti a vedere le celebrità che sfilano in Via Veneto. Ma lui, stacanovista e professionale, non esce di casa. Passa le sue serate a disegnare. E così a notte fonda qualcuno propone di andarlo a trovare. Si presentano tutti insieme alla sua porta e lo costringono a interrompere il lavoro per divertirsi un po'. Lo sanno già che è un genio, non ci metterà molto a riprendere dal punto in cui si è fermato. Generoso e sorridente, lui li accoglie a braccia aperte, felice di quella ventata di allegria arrivata a domicilio. Quello che pensa dei suoi coetanei adesso è lo stesso che penserà molti anni dopo dei giovani che potrebbero essere suoi nipoti. I giovani, c'è una categoria, diciamo, di un 90-80% che sono entusiasti, che cercano la bellezza, cercano la creatività, cercano qualche cosa che non ce l'hanno, sono disperati. I ragazzi del clan della Martinelli guardano con rispetto al tavolo dei grandi dove sono seduti Flaiano e Visconti. Lina Wertmüller fa già quel che si dice il negro. Scrive copioni per i registi famosi. Lucherini, futuro press agent, è l'addetto agli scherzi. Negli anni 60, per levarsi di torno i fotografi, si inventa che Richard Burton e Liz Taylor stanno litigando da qualche parte. Così i paparazzi salgono sulle loro vespe e corrono a cercarli alla velocità della luce. Giancarla Rosi, moglie del regista nonché sorella della stilista Crizia, è quella meglio sistemata e fa un po' da protettrice agli altri. Li ospita, gli dà da mangiare. Roberto Capucci ogni tanto riemerge da casa sua e compare al Donei con i suoi disegni sotto braccio. Li fa vedere a Elsa, una delle sue più grandi fan. A lei piacciono moltissimo e non può che augurare all'amico una cosa sola. E ovviamente, spero veramente che abbia molto successo. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare. Il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo negli anni 50, nel cuore della dolce vita romana. Al bar Donei di Via Veneto si ritrova ogni sera un gruppo di giovani amici squattrinati con tanti sogni in testa. Guardano passare le celebrità e ascoltano i discorsi dei grandi intellettuali che siedono nei tavolini vicini, come Flaiano e Fellini. Tra Giancarla Rosi, Lina Wertmüller e gli altri ci sono anche Elsa Martinelli e Roberto Capucci. Magrissima, slanciata, colta, libera, tenace. Elsa è il contrario delle maggiorate che vanno tanto di moda al cinema, strizzate nei bustini che esaltano le loro forme procaci. Ha grandi occhi da cerbiatto, un'eleganza innata che la fa camminare a lunghe falcate e affronta la vita a testa alta. Il suo amico Roberto Capucci è un po' più grande di lei, Elsa del 35, lui del 30. È nato e cresciuto a Roma e si sente parte di questa città straordinaria che sorprende ad ogni angolo. La conosce tanto da poterla girare ad occhi chiusi, le strade, le piazze, le case che si affacciano sul Lungotevere. Quando da ragazzo nel 1953 va a vedere Vacanze romane, non può che commuoversi di fronte alle parole di Audrey Hepburn. Quali delle città visitate è piaciuta di più a vostra altezza? Ognuna nel suo genere. Ognuna nel suo genere è indimenticabile. Tuttavia potrei dire Roma. Sì, Roma, senz'altro. Il ricordo di questa mia visita non mi abbandonerà, sin tanto che vivrò. Dopo aver terminato la scuola dell'obbligo, Roberto Capucci si iscrive al liceo artistico. Nonostante sia ancora un ragazzino, sa già perfettamente cosa vuole dalla vita. Ama l'arte in tutte le sue forme, dalla pittura al cinema, dalla scultura alla letteratura. Legge molto e ascolta sempre a bocca aperta quelli che hanno qualcosa da insegnargli. Capucci è un ragazzo generoso che appena può aiuta chi gli sta intorno e nonostante il suo carattere tendenzialmente schivo, ha la grinta giusta per arrivare dove vuole. Non disprezza la solitudine e basta a se stesso, soprattutto se ha in mano una matita e può improvvisare qualche schizzo. Però non disdegna nemmeno la compagnia, ben consapevole del fatto che a volte per lui che è abituato a vivere tra le nuvole sia giusto mettere i piedi per terra. Guarda, io dico più no che sì. Se ho detto sì perché ho capito che... Ad attendere Capucci dopo il liceo c'è l'Accademia delle Belle Arti. La frequenta con dedizione, sperimentando le prime ricerche sulla forma e sul colore che poi metterà a punto nella costruzione dei suoi abiti. Poco dopo, a cavallo tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, bussa alla porta del grande Emilio Schubert con i disegni sotto braccio. L'eccentrico stilista che veste le dive di Cinecittà, solito camminare per Roma con i sandali e le unghie dei piedi laccate di rosso, accoglie a braccia aperte il giovane talento e gli fa cominciare una fertile collaborazione con il suo atelier, durante la quale Capucci imparerà molti trucchi del mestiere. Lo racconta nel suo documentario proprio su Schubert il regista Antonello Sarno. Dunque Schubert per la moda italiana è stato il papà della grande moda italiana, dell'alta moda italiana, è stato il primo italiano a stilare a Parigi e aveva come collaboratori nomi come Valentino, Renato Balestra, Roberto Capucci. Roberto Capucci è talentuoso e indipendente e non gli basta collaborare con Schubert. Vuole un atelier tutto suo nel quale dare spazio alle sue idee. Lo apre nel 1950 in via Sistina e già sorprende le clienti con creazioni insolite e molto innovative rispetto ai canoni del periodo. L'anno dopo partecipa anche lui al primo défilé collettivo della storia della moda italiana. È l'inizio del Made in Italy. Con Capucci iniziamo la visita ai grandi creatori di moda, i cui modelli hanno avuto una degna cornice nelle splendide sale decorate dal Vellini. 12 febbraio 1951, Firenze. Nella bellissima cornice della città toscana sta nascendo quella che sarebbe diventata un'eccellenza della tradizione tessile del nostro paese. Il marchese Giovanni Battista Giorgini, dandy lungimirante, organizza nella sua casa fiorentina in via dei Serragli il primo défilé collettivo di stilisti italiani che chiama in pieno stile hollywoodiano First Italian High Fashion Show. L'evento è di quelli che non si dimenticano. Una villa in centro storico, interni intatti che evocano un passato glorioso, cibi raffinati esclusivamente della zona e un ballo finale che coinvolge la nobiltà fiorentina, a cui viene chiesto di indossare abiti ispirati a Maddalena Strozzi. Bista, così chiamano tutti il marchese, ha già fatto affari con gli Stati Uniti e ha una grande intuizione perché riesce a trascinare in quella sfilata casalinga i migliori compratori americani. Julia Trissel della Bergdorf Goodman, importantissimo negozio di New York. Stella Henania della Magnin. Henry Morgan da Montreal. Invita poi tre firme del giornalismo di grido a presenziare all'evento. Elsa Robiola di Bellezza, Vera Rosi di Novità ed Elisa Massai di Women's Wear. Ero in un angolo della sala col cuore in gola per questi compratori, questi esperti di moda che venivano da Parigi. Avevano appena visto tutte le collezioni di Parigi e non potevo vedere dalle loro espressioni se questa collezione piaceva o non piaceva. Terminata la sfilata, mi avvicinai per sapere la loro reazione. Entusiasti. Questo gruppo di 5 compratori tornarono in America con tale entusiasmo che quando feci la seconda sfilata vennero dall'America in 300. Oltre alle certezze sulle quali è facile scommettere, come Schubert e le sorelle Fontana, il marchese Giorgini punta su nomi ancora sconosciuti. Tra questi c'è proprio Roberto Capucci. Già si intravede in lui uno stile personalissimo che sta a cavallo tra la portabilità degli abiti e il gusto per la mera forma scultorea. Per il giovane ogni abito è un'opera d'arte da curare in ogni singolo dettaglio, ma anche un pezzo artigianale che oltrepassa il tempo e le mode. Il successo dell'evento organizzato da Giorgini è immediato e il risultato supera le aspettative sia per immagine che per ordinativi. L'anno successivo, luglio del 52, Bista tenta il grande salto e ce la fa. Accorpa lo stile italiano ai fasti del Rinascimento, facendo sfilare le modelle nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, che avrebbe ospitato le collezioni per i decenni successivi. Cosa si dice tra le file di sedie della Sala Bianca? Tutti i sarti italiani, forse per la prima volta, si sono trovati d'accordo nel vedere la donna 1959 come una creatura quasi ideale. L'hanno vestita morbidamente con abiti fluttuanti e sofisticati, tessuti preziosi, nuovi, ricercati, e pellicce dalle coloriture stravaganti e dalle confezioni estrose. Roberto Capucci sembra avere imboccato la strada giusta, ma sa bene che non è ancora il momento di sedersi. A dire la verità, per uno come lui, il momento di rilassarsi non è ancora arrivato oggi, ma in quei primi anni, a maggior ragione, è necessario lavorare sodo per farsi conoscere. Ecco perché, mentre tutti i suoi amici sono aldonei a guardare le celebrità che sfilano, lui sta a casa sua a disegnare e compare solo di tanto in tanto, per la gioia della sua amica Elsa Martinelli, che oltre a considerarlo un genio, gli vuole un bene infinito. L'ammirazione è reciproca. Lui trova Elsa bellissima e affascinante nel suo essere così diversa da qualsiasi altra donna. È ancora poco più di un adolescente, forme acerbe che diventeranno tratto distintivo anche della sua giovinezza, ma già dimostra un carattere definito e una personalità unica. E così Capucci propone alla Martinelli di sfilare per lui. Donne belle non me ne importa nulla, io voglio vestire le donne di carattere, donne che hanno personalità, che hanno grinta, che sono forse anche cattive, che hanno, allora sì, il vestito non lo indossano, ma lo portano con gioia. Invidio turista che arrivi, ti imbevi dei fori e dei scali, poi tutto d'un colpo te trovi, fontana dei Trevi che è tutta per te. Io qui, proprio qui l'ho incontrata, e qui, proprio qui l'ho baciata. Lei qui con la voce smarrita m'ha detto è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina. Destini incrociati. A A Destini Incrociati siamo all'inizio degli anni 50 e sullo sfondo della dolce vita romana una giovanissima ragazza di nome Elsa Martinelli sta per spiccare il volo grazie al suo amico Roberto Capucci. Capucci è uno dei più promettenti talenti della sartoria italiana e ama stupire le clienti del suo atelier di Via Sistina con abiti insoliti che sembrano quasi sculture. Originale e precursore dei tempi, è il primo ad accorgersi che Elsa, con la sua bellezza filiforme così lontana dai canoni delle maggiorate tutte curve, ha le carte in regola per diventare una star. Quando le propone di sfilare per lui, lei sulle prime scoppia a ridere, ma lui insiste, vuole che indossi le sue creazioni. La Martinelli è abituata a lasciare che le cose accadano da sole più che ad andarsele a cercare e accetta la proposta prendendola quasi come un gioco. Invece Roberto Capucci è l'uomo del suo destino. Dopo che la lancia per primo, per lei comincia immediatamente l'avventura. Ma guarda che è stato un caso, perché io ero ragazzina, proprio per caso feci due fotografie con due grandi fotografi che erano Patellani, Federico Patellani e Federico Scrimali, poi siamo tutti e due Federico, stranamente, e ti posso assicurare che queste due foto ebbero un tale successo che immediatamente venne chiamata da Emilio Pucci per andare a Firenze e sfilare la sua collezione. Schubert mi chiamò per la sua collezione, quando mi vide disse no, per carità, lei è troppo magra, sei troppo giovane e via. Poi mi richiamò e mi disse però sei talmente bella, così carina, ti faccio fare una bella foto, e mi fece un abito da sposa per una fotografia che io ancora la tengo veramente nel cuore, perché è stata una delle prime grandi fotografie che ho avuto in vita mia. Dopo le prime sfilate il destino di Roberto Capucci è lastricato di successi. Sposta il suo atelier in via Gregoriana, la stampa internazionale lo acclama e Dior stesso si complimenta con lui in pubblico proclamandolo il miglior creatore di moda italiano. La sua linea a scatola, datata 1958, è una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico e delle lavorazioni, un'assoluta novità stilistica che in quanto tale viene all'inizio accolta malissimo, come spesso succede alle proposte d'avanguardia. Ma il successo raccolto all'estero fa sì che anche la stampa nazionale cambi idea e lo acclami. I francesi lo amano e l'apertura di una boutique nella chic Rue Cambon è quasi doverosa. Ma l'artista romano non si piegherà mai alle strette esigenze del mercato, preferendo negli anni continuare la sua ricerca senza che i riflettori siano puntati su di lui. Le sue presentazioni fuori calendario, per esempio, hanno il sapore della performance e fanno storcere il naso ai puristi delle sfilate. Gallerie in tutto il mondo, Biennale di Venezia, premi e riconoscimenti internazionali. Per Roberto Capucci le soddisfazioni non finiscono mai. La sua amica Elsa, intanto, grazie a lui che l'ha scoperta, diventa una fotomodella contesa dagli altri stilisti. Con la valigia di chi non sa quando tornerà e la malinconia di una ragazza poco più che adolescente che se ne va di casa, lascia Roma per sfilare a New York e approda niente meno che sulla copertina della celeberrima rivista Life. Succede tutto velocemente e all'improvviso. Il divo Kirk Douglas, in cerca di una protagonista per Il cacciatore di indiani, la nota e la chiama per un provino. E questa foto, importantissima, ovviamente all'epoca Life era la più grande rivista del mondo, e sì, nacque così, che notò questa fotografia e mi chiamò per un provino che io non volevo tra l'altro neanche fare, che stavo benissimo a New York. E però non conoscevo Los Angeles, allora disse vabbè, vado in California gratis e andai a fare questo provino. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Il percorso tradizionale delle star nostrane è Cinecittà Hollywood. Per Elsa Martinelli è il contrario. A imporla a livello internazionale è il western Il cacciatore di indiani, nel quale recita accanto a Kirk Douglas e appare anche senza veli. Da questo momento viene richiesta dai più grandi registi stranieri, anche se l'Orso d'Argento a Berlino se lo aggiudica con un film italiano, Donatella, di Mario Monicelli. Ho lavorato con tutti gli attori, con tutti i registi importanti di Hollywood, fino a Orson Welles, col quale ho fatto tre film, che è uno dei personaggi che amo di più nella vita. Da Roger Vadim a Pasolini, da Howard Hawks a Jean Aurel, la Martinelli gira in tutto ben 64 film. Diva controvoglia, la cercano tutti, e lei sembra lasciarselo scivolare addosso con la stessa leggerezza della ragazzina che aveva detto di sì a Capucci. In America frequenta i locali dove si incontrano Gary Cooper, Ava Gardner, Salvador Dalí, Frank Sinatra e Marilyn Monroe. Finisce su tutti i giornali, ma sembra non curarsene troppo. Quando Lelouch la vuole per un uomo o una donna e va a raccontarle di persona quello che ha in mente, lei rifiuta dicendogli in faccia che la storia è troppo melensa. Poi propone al suo posto Anouk Aimée, che di fatto ne diventerà la protagonista. Disinibita e moderna, posa nuda, è in giro per le sue amate notti romane, è la prima a portare la minigonna. Conosce tutti, Nureyev, Truman Capote, Grace Kelly. A New York si scatena a El Morocco, passa le sue estati a Saint-Tropez con Brigitte Bardot. Onassis la ospita nella sua casa a Scorpios e quando non c'è Maria Callas si trasforma, salta sul tavolo e la invita a ballare con lui il sirtaki fino all'alba. Gary Cooper, per darle il benvenuto, beve champagne da una sua scarpa di raso. John Wayne la conquista con il suo gusto raffinato, così diverso dal personaggio che interpreta di solito. E il presidente Kennedy si sveglia apposta per salutarla. Ero ospite di amici a Las Vegas, a Palm Springs, dove c'erano degli altri amici miei che lo conoscevano molto bene. Lui era venuto a salutarli, però si era poi fermato a dormire. E io partivo il giorno dopo da questa casa e così in cima alle scale in Vestaglia c'era il presidente degli Stati Uniti e sono alzato per dirle buon viaggio, per salutarla. Era molto elegante e molto carino. È ancora dolce la vita nelle notti romane, ma non sarà mai così dolce come quella notte in cui Roberto Capucci fece di Elsa Martinelli una star. Thank you.